sono le ore 10 e un minuto di domenica 7 aprile 2024 e ho letto un bellissimo post di Giovanni Bocciartieri sul suo blog Mediamondo. Giovanni che preparava in quell'occasione una conversazione con Vera Ghen, autrice di due bellissimi libri. Il primo lo so per certo perché l'ho letto, mi verrebbe da dire L'antidoto. Il secondo lo immagino, Gramamanti, uscito quest'anno per Einaudi, sul tema del livore linguistico. Livore linguistico che deborda ormai sui social media come ulteriore chiave di direi soprattutto una chiave identitaria. Ecco, questo mi sembra uno dei temi interessanti sollevati da Giovanni, perché molto spesso dietro la volontà di ribadire, di prendere posizione sul significato sociale dell'uso di un certo tipo di linguaggio, c'è anche una volontà di, lui dice, visibilità, io credo soprattutto di affermazione sociale nei rispettivi gruppi, il che non va assolutamente in sé demonizzato, anzi quello che mi verrebbe da dire è che grazie a internet oggi siamo in grado di vedere come mai per esempio tante persone votano a destra. Io ricordo negli anni 90 lo stupore di non riuscire a incontrare, a parlare, a conversare con un berlusconiano, e intanto però quel partito e soprattutto quel brodo culturale che in qualche modo ispirava l'appartenenza a quello schieramento non sembrava non trasparire nelle conversazioni tra le persone, come se esistesse appunto una maggioranza silenziosa pronta ad abbandonare, come sappiamo, soprattutto il sistema di potere che ruotava intorno alla DC e poi trasferirsi in massa nel magico mondo berlusconiano. Ecco, oggi è abbastanza più facile vedere, incontrare, grazie a internet, anche grazie ai social media, o per colpa, perché chiaramente ci sono anche meccanismi tossici dei social media, l'algoritmo, la polarizzazione, eccetera, però è più facile incontrare le persone che votano per esempio per Giorgia Meloni, e capiamo anche perché, cioè dove dietro ci sono molto spesso anche motivazioni a cui non avevamo pensato e che dovrebbero farci ragionare su come per esempio far recuperare consensi allo schieramento per cui votiamo noi. Per esempio una cosa di cui ci siamo accorti, e questo già nel momento di massima popolarità del Movimento 5 Stelle, è che i temi di sinistra ormai la sinistra non li governa più, la sinistra identitaria, dal punto di vista poi del riuscire ad essere credibili nel farli propri, ormai si sono spostati altrove, prima verso la Lega, mi verrebbe da dire, poi verso il Movimento 5 Stelle e oggi persino verso la destra. E poi ecco, il che tra l'altro significa, probabilmente mette in evidenza il fatto che il conflitto ormai non è più ideologico ma è strettamente spaziale, cioè nella conquista di spazi di affermazione e poi anche di spazi fisici, perché poi quello che vediamo accadere nelle mappe del nostro paese, le mappe delle città, le aree urbane eccetera, è semplicemente la capacità del sistema di relegare le persone, i soggetti deboli nei luoghi della disuguaglianza, della scarsa accessibilità a servizi sociali ma anche alla cultura eccetera, e invece la concentrazione di tutti questi servizi nelle varie forme nelle aree ricche, nei centri urbani, nelle città storiche. Quindi io quello che leggo in questo famoso livore linguistico altro non è che un altro modo per segnalare appartenenze e volontà di affermazione. Dobbiamo imparare, credo, a leggere le conversazioni su internet anche in questa chiave. Perché? Perché la rappresentanza, i meccanismi della rappresentanza sono profondamente in crisi e abbiamo questo strumento, questa possibilità per tornare a dare significato a questi meccanismi, a creare anche nuovi legami di fiducia senza i quali credo che mi verrebbe a dire oggi la sinistra, se significa ancora qualcosa, ma anche la destra non trova risposte alle proprie constituencies, alle proprie basi elettorali.